Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, anche noi ripartiamo dalle notizie che arrivano dunque dal canale di Sicilia. Sono tutti in salvo i 121 migranti che erano a bordo di un barcone, come avete sentito pochi istanti fa, a bordo di un barcone da più di 48 ore alla deriva al largo dunque delle coste. Ecco, tutto questo accade proprio mentre viene lanciata quella che è l'iniziativa Eurosur per il controllo delle acque di fatto di confine dell'Unione Europea, e naturalmente in parte significativa sono quelle italiane. Dunque Eurosur, la nuova tecnologia europea nata nell'ambito del progetto di controllo delle frontiere, una sorta di occhio comune che consenta di individuare ogni barca che si avvicina, con l'intento evidentemente di controllare, eventualmente di fermare, ma soprattutto in prima istanza di soccorrere chi è in difficoltà, come a volte accade, come oggi accade positivamente, ma purtroppo troppe volte invece finisce molto diversamente. Comunque il funzionamento di questo progetto e di questo meccanismo lo sentiamo dalla voce di Michele Cercone, sentiamo. Per avere un'immagine più concreta è come pensare ad uno schermo di computer in cui appaiano uno alla volta tutti gli elementi di informazione disponibili in quel momento, ad esempio la presa della telecamera aerea che sorvola un tratto di mare, il sonar, il radar di navi che si trovano in quella zona, l'immagine satellitare che copre quel determinato tratto. Tutto questo si materializza e si sovrappone fino a creare una cartina digitale dettagliatissima che permette di avere immediatamente in tempo reale tutte le informazioni e che è in formato tale da poter scambiare queste informazioni tra autorità nazionali e tra autorità europee. Quindi Eurosur è un sistema per identificare, sta poi alle autorità nazionali, sulla base delle informazioni ricevute, prendere le necessarie disposizioni, che siano per il soccorso in mare o, laddove ci si trova di fronte a un'attività illecita come il traffico di droga o di armi, intervenire per bloccare i criminali e arrestarli. Ecco Michele Cercone, che è portavoce della commissaria Cecilia Malmström. E a proposito di aiuti e interventi per i cittadini europei, dunque italiani compresi, aiutare le popolazioni dei paesi in via di sviluppo è importante e vale la pena quindi di spendere, di investire. A rivelarlo è l'Eurobarometro sullo sviluppo, con un rapporto presentato nei giorni scorsi. L'indagine intitolata Gli aiuti allo sviluppo dell'Unione Europea e gli obiettivi di sviluppo del millennio ha coinvolto oltre 27.000 cittadini europei, tra cui 1.025 italiani. I risultati, dunque, l'aiuto ai paesi in via di sviluppo rappresenta per l'83% degli europei intervistati un tema importante, va perseguito nonostante le difficoltà economiche di questa fase. Bene, con questo è tutto per oggi. Naturalmente i nostri temi europei tornano a partire da domani intorno alle 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.